lascerò tutti i miei figli ad un futuro incerto. Mangerò composta a tavola con mani giunte. Piangerò con discrezione senza darne l'occhio. Dormirò come se fossi morta. Pregherò finché tu possa avere tutto ciò che vuoi. Soldi, macchine, una donna al giorno e la possibilità di avere tutto e subito, senza aver bisogno di essere mai perdonato. I say fuck you, you will never know what's going on with my mind, so you better watch out, out. Non reagisci più e hai lo sguardo spento, stai sudando freddo e parli al vento. Non fai più il superbo, incerta ti tradisce. Asseconderò ogni tua perversa inclinazione. Proverò ad interpretare ogni tuo malumore. Sarò pronta accanto a te quando verrà il momento, quando il tempo ti restituirà quello che hai dato.